Natura lo suo corso prende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita e avanzar la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura et no man a house of good stone, with usura et no man a painted paradise on his church wall, harps et lute. Per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto e con pianto e lamento, per me, piangendo. With usura! With usura! L'arte vostra! Quella with segue usura. Come il maestro fa il discente. Queste due così viene prenderle. With usura. With usura has no man a painted paradise on his with usura no music is made to endure nor to live with. With usura sin against nature. With usura. Ah! Eterno dolore. Tra la perduta gente. Lasciate. Lasciate ogni speranza. Di tutto loro che è sotto la luce. Di chi già. Di quest'anno. Non potrete farlo notare. E un poco eterno. Thank you.